ad alta voce. Patrizia Zappamulas legge Artemisia di Anna Banti. Ventesima puntata. Nell'agosto 1939 ricercavo, senza speranza, dentro e fuori Somerset House, la tomba di Orazio Gentileschi, morto 3 secoli prima. Una strada squartata, arroventata, lucida, di velenose arrotature, l'aria carica di un pulviscolo dal gusto di metallo. In vista di certi empori da marinai, interrogavo i commessi di certi uffici comunali. Il Tamigi, tra le spallette di cemento, era un affaticato termometro da ospedale. E traversai la strada per raggiungere, in mezzo a un mare di sole, l'isolotto di marciapiede dove una chiesetta pareva di ghisa dalle guglie alla cancellata. Ma non nascondeva per caso la pianta della cappella cattolica di Enrichetta Regina? 2 volte feci il giro dell'isolotto e mi pareva di non poterne più uscire. Se la pietra è avara, la carta soccorrerà. Bevendo camomilla, la dotta Miss Dorothy promise le più accurate ricerche d'archivio, ma io avevo già visto nel riverbero di agosto che l'aria immobile, la luce ferina, il cielo ragnato e basso sarebbero gli unici testimoni immutabili e veritieri del funerale di Orazio. E il caldo. Non può essere che le cure funebri non prendessero in Artemisia, almeno per qualche ora, il sopravvento su una disperazione così nuova e fresca. Si agitò, aiutò a lavare, a preparare, a ornare. Forse prese in mano il pennello per una decorazione necessaria e urgente, un ritratto da collocarsi sul drappo nero. La finestra era esposta in pieno mezzogiorno, le cere si struggevano. Quando tutto fu pronto, non rimase che muoversi sotto il sole. Il caldo settentrionale, improvviso, denso e tetro, fu il primo legame che mi strinse ad Artemisia, un legame di disagio terrestre. Mentre calpestavo le lastre di fuoco e pensavo a lei che a lento passo andò sotto il sole a seppellire suo padre. Non c'erano marciapiedi, si camminava allora tra la polvere di invernali carreggiate fangose. «Ai sì», disse un passante, approvando chi gli camminava al fianco. E così, poté dire un suo antenato, irlandese anche lui, coi capelli rossi, che seguendo con gli occhi un corteo funebre, non certo molto ricco, ma cattolico di sicuro, ne domandò e gli risposero «Quel pittore vecchio, quell'italiano magro con la barbetta, ai sì». Un bambino aveva per mano quel curioso. Mettiamo che fosse domenica. Il bambino lo tirava, aveva una promessa da farsi mantenere e lui era un buon uomo, carezzevole, condiscendente. Riprese a parlare col bimbo, voltò le spalle al funerale, voltò l'angolo e non ci pensò più. Chi muore, muore. La polvere si attaccava alle falde di panno nero, alle pelli madide. Anche i pittori fiamminghi, che uniscono così bene la proprietà all'agio, si trovavano incomodati. Bisogna riconoscerlo, ci sono tutti i Pieter, gli Justus, gli Adam, gli Abram delle Fiandre spatriate. C'è il grande Anthony coi suoi pizzi cascanti e si terge la fronte col fazzoletto di seta. Ma, ahimè, come rigidi e scoscesi si appuntano al cielo i piedi del morto nelle calze nere ben tese. Quella prova di lugubre, grottesca intransigenza al passo fomentava la disperazione di Artemisia, che per lui non può ormai se non camminare. Tra 2 fiamminghe in raso nero, mute e accese di sudore, fra 2 ignote cameriste improvvisamente pietose, la strada era come gli altri giorni, le solite buche, i soliti sassi, i soliti venditori e gli occhi di Artemisia che non vogliono guardare e guardano. Il corteo fu bloccato un momento. Acchiappavano un ladro, un ragazzo pallido con le ginocchia in sangue e una bisaccia tracolla. Dentrovi un fascio di fior di spigo, se ne sentiva l'odore nel sole. Le torce, fiammelle diritte e scolorate, friggevano. La livrea nera e argento della regina fumava sulle spalle dei becchini che si avvicendavano al cataletto. Eppure Orazio era così leggero. Meccanicamente la pittrice registrava i toni, li traduceva in terre, in lacche, i cui nomi le salivano alle labbra come una preghiera. La preghiera per un pittore che non avrebbe dipinto più. E per chi dipingere ormai, se gli occhi di Orazio sono fatti di vetro, immobili, insensibili alle immagini? Gli stivali nuovi di Andrea van Ertveld scricchiolavano ritmicamente. Egli respirava grosso. Artemisia crede di camminare fra buoi, fra bestie industri e mute, e pensò ai funerali di Roma, coloriti e commossi, quando i virtuosi di San Luca in folla rendono onore a un confratello. Sarebbero accorsi per Orazio tutti i primi soggetti, le livree di tutta Roma, e cavalieri e principi e confraternite. Stasera egli avrebbe dormito a San Lorenzo in Lucina fra i suoi compagni antichi. Non c'è cosa più lesta che seppellire un morto, e chi ci ha assistito può ben meditare e leggere salmi la sua convinzione profonda, anche nelle più lugubri dimostrazioni, è che in un simile errore lui non ci cascherà. Ai parenti, invece, partecipi e quasi complici di questo sbaglio, rimane da amministrare un patrimonio invisibile, il dolore, e accudirlo, ammansirlo, farlo vivere in casa finché non si acquatti piccolissimo in un angolo familiare. Ma Artemisia non ha casa, e quando i pittori, i famiglie reali, quella mano di preti, quelle donne comandate o curiose la lasciano sull'uscio che fu del padre, non c'è anima né oggetto che la soccorra. La finestra di Orazio è spalancata come non fu mai, da un gesto estraneo, e la luce pomeridiana vi padroneggia, sventrando la stanza. Qualcuno ha già rimosso sedie e tavoli, forse portato via masserizie. Certo è enorme lo spazio lasciato libero dal letto funebre, e i tanti utensili e accessori di cui si infoltiva una vita si rincantucciano, poveri e pochi, neppure in disordine. Si sedette, si alzò in piedi, toccò la pila dei telai, passò il dito sulla polvere delle boccette, poi andò alla finestra, come sperasse di poter volare. Sfoggiando come al solito di porpora e d'oro, il sole tramontava, lasciando verdi i prati e distinti le foglie e i fiori delle siepi, uno per uno. Traluceva l'acqua del Tamigi d'albero in albero, e dalla riva opposta ai giardini reali si staccavano chiatte e barchette, gente che intendeva cenare al fresco in compagnia. Qualcuno ripeteva sul liuto le prime note di una canzone italiana, e poi sbagliava sempre la stessa nota. I leoni della regina ruggivano fiocamente dalla loro gabbia incassata, le due aquile della voliera rispondevano col loro grido tetro e lacerante. E che cos'era Artemisia se non un animale bizzarro portato di lontano e incatenato? Forse anch'esse, le belve prigioniere, vedono come lei in un sasso, in una macchia d'erba o nel moto di due piedi umani laggiù, nient'altro che la forma casuale di un loro cruccio, di un loro desiderio impossibile. Il suo sentimento era, mentre gli occhi perlustravano i contorni di un oggetto che era forse un cane accovacciato, di batter la fronte su ogni spigolo come l'aveva battuta sui denti di suo padre, così duri e inerti. Conobbe che finora la sua tristezza era stata un passatempo, quasi un gioco. Non c'era uomo o animale o pietra che non glielo confermasse, oggi che aveva assaggiato la morte con una particolare indifferenza o lontananza, quasi fossero stati sciolti certi invisibili ormeggi e lei navigasse già mentre gli altri stavano fermi su una riva da cui era esiliata per sempre. L'errore era stato commesso. Il Gentileschi aveva ceduto, era morto. Sua figlia ne era partecipe e aspettava di commetterlo anche lei. La vita era pesante, torbida, acqua che non si può più bere. Rimanesse o ritornasse in patria, Artemisia seppe che il suo compito era morire. Come l'avessero chiamata a scegliere e fosse in suo potere consentire o no, essa accettava, sigillando un contratto su un gioco di luce, su un'allegra barcheggiata, tre donne e un cavaliere in piume che scivolava piano piano sulla corrente. Nello stesso tempo sentì che il morto recente, ciò che era stato Orazio, e cominciava a prender contatto con la terra umida, ancor calda alla superficie della fossa, rimaneva estraneo e indifferente alla sua sorte, né padre, né pittore, né uomo ormai. Soltanto allora ebbe paura. Credere all'importanza della morte, almeno. Per esserne persuasa, cominciò fin da allora a raccontarsi la propria. Ne aveva tante a sua disposizione, ricca com'era di un viaggio di ritorno disagiato e pericoloso. C'erano occasioni infinite sulla sua strada: il mare, la terra dura e rocciosa, i pugnali dei banditi, il veleno delle osterie e la peste e il suo corpo debole. Il giardino e il fiume andavano acquistando una lucidità violetta. Dietro le spalle della donna la stanza era già buia e nessuno bussava alla porta. Gli inglesi temono gli spettri. Come poteva Artemisia non guardare il cielo? Non pensava a pregare, ma rispose alla sua disperazione dalla palpebra già corrusca della prima stella un ammiccar generoso. Oh, tu che saprai la mia morte, tu che non sei ancor nato e non me la fai conoscere, gemeva l'incredula, slanciandosi dal suo secolo duro e chiuso incontro a non so che presagio di età affettuosa, di anima fraterna che sola avrebbe saputo piangerla. Si notò in corte che l'italiana non passò più di tre giorni nel suo lutto e quando uscì di camera non mostrava segni di corruccio, ma piuttosto un contegno sbadato, insolente, anche in presenza di sua grazia la signora duchessa Arabella, che era di ritorno. Schivava le compagnie onorevoli, evitava le sedie nobili, s'accomodava su sgabelli bassi, i gomiti sulle ginocchia, la testa fra le palme, ma non piangeva. Si comportava come nessuno la vedesse. Accavallava le gambe, poggiava il pugno sul fianco o incrociava le braccia al petto, sopra pensiero, in qualunque compagnia. Cambiò la foggia dei capelli, ben pettinati, ma sdegnando la moda, talché pareva la sua una testa d'altri tempi, non si sa quali. Donna bizzarra, più di ventura che virtuosa, e se non fosse stato suo padre, mai l'avremmo chiamata da queste bande. Nulla le fu detto, che da sé ha deciso partire. Le concede sua maestà di portarsi tre quadri del padre e 10 guinee per il viaggio. Ma Artemisia ha da fare. Pensa alla sua morte. Era almeno alla 30ª quando partì, come era venuta, sola e tranquilla, che pareva andasse a diporto. Lei, inchinandosi a Lady Arabella, pensava che non sarebbe giunta a Canterbury e morrebbe in quella campagna rasa per un colpo sul fianco, tratta dalla carrozza rovesciata, del sangue fra la polvere, un cordiale che non può ingoiare, sterco di cavallo vicino alla sua mano distesa e una margherita che oscilla sul margine della via. Passò Canterbury e sulla strada di Rochester inclinò per la morte in mare. Vento notturno, onde smisurate, la vela che si imbroglia, l'albero che cade, la nave che si spacca, e sentiva tra urli e preghiere fino il brivido dell'acqua ghiaccia e un improvviso non voler morire. Ma il canale era liscio come olio e sempre sotto il sole si navigò, che era un piacere. Neppure una goccia la toccò, aveva appetito. Dunque sarebbe morta di briganti in un bosco e sotterrata al buio. Cominciò a preferire le vetture notturne, le corse e le strade più rischiose. A occhi spalancati e fermi preveniva il momento che la ruota rasenterebbe l'abisso e ci traboccherebbe. Accompagnava l'impeto della vettura incrociante di carriera, sollecitava, stringendo le palpebre, l'urto mortale. Mai non si rovesciò la carrozza, mai una ruota si ruppe, mai una lanterna si spense per vento che soffiasse anche fra le gole dei monti. Notti da lupi, ma lupi non ce n'erano, né uomini in vesti di lupi, soltanto e sempre uomini poverissimi, mendicanti, rustici e villani affamati, nutriti di fave, la pancia gonfia, i colli magri. Dove avrebbero riposto un coltello fra quei loro stracci? Tremavano sui bordi delle strade di cattiva febbre, senza pericolo di contagio, mentre dai gran comignoli dei castelli, fra le praterie grasse, un grasso fumo offuscava il sole. Negli occhi delle fanciulle, tra il bruno e il verde, di nuovo scintillava gaiamente l'umile malizia del boccone ottenuto per elemosina. Così sorrideva un anno fa Delfina, e il suo ricordo, modulato di canto, addolcisce l'aria. No, non sarebbe morta di ferro e rapina Artemisia Gentileschi. La corrente del Rodano era magra quell'anno, che c'era dappertutto siccità. Gli scogli traditori, celebri per accidenti e paure a chi scende per via d'acqua, emergevano tutti, coperti di arido muschio, quasi denti morti e disseccati. Nessuna barca si sarebbe capovolta in quella stagione. Le vigne riapparivano, cariche. La vendemmia incominciava. Faceva ancora caldo. Nelle osterie si cenava a uscio aperto e sempre qualcuno rimaneva un poco a frescheggiare sui banchi di pietra ai lati della porta, guardando le stelle. Artemisia cenava di latte, come sempre, ma il 7 ottobre non può rifiutare alla compagnia di assaggiare il pasticcio di lepre e un bicchiere di vino. Si scordò di dover morire. Poi disse d'aver sonno e salì in camera. C'era in quella stanza un letto di sergia verde che in tutto somigliava al suo di Napoli. Le parve d'essere arrivata a casa e che il viaggio fosse finito. Non le era successo nulla, era viva e per la prima volta aveva sentito, stasera, cosa sia certa voracità ghiotta dell'età matura, preludio alle sensuali dolcezze della vecchiaia. Ne era conscia, ma non sino alla tristezza, anzi la tristezza di qualunque natura le sembrava una forma irricreabile. La morte non l'aveva ascoltata, il suo corpo era presente come non mai, le parve d'essere ingrassata, anzi turgida e immortale negli istinti, la fame, la sete, il sonno. Peccato, pensò avvertendolo a un tratto, peccato questo dolore alla nuca e alle braccia. Lo considerò un contrasto fittizio al nuovo ottuso benessere, una piccola battaglia da vincere per il suo sangue forte. Le pareva di non averne mai avuto tanto e così robusto nelle vene. Dormendo, questo fastidio sarebbe domato. Lei si sentiva padrona del sonno e del risveglio. Morire a letto. Ecco l'unica fine che Artemisia non s'era prevista quando incalzava e quasi frustava il proprio destino. Morire a letto, non di accidente fulmineo né di tragica peste, ma di un male lento, incerto, malizioso, che può durare degli anni. Così muore la più parte degli uomini. Tirò le cortine, spense il lume. Stette un pezzo a prender sonno. Fu una notte difficile. Estate 1944. Estate 1947.